Letture di Radio 24. La sovietizzazione dei paesi del blocco orientale dell'Europa, avvenuta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, non ha portato solo l'imposizione di regole burocratiche, ma per un certo periodo ha permesso alle classi meno abbienti di ottenere i beni essenziali a buon mercato, scrive il sociologo Domenico De Masi in un articolo pubblicato sul magazine Style. L'istinto di conservare i vantaggi ottenuti in passato spiegherebbe come ancora oggi in quei paesi ci sia un'inclinazione all'accentramento del potere e al rifiuto degli immigrati. Per decine di anni, mentre restava dura la contrapposizione tra mondo capitalista e mondo comunista, quest'ultimo era strutturato in cerchi concentrici. Al centro c'era Mosca. Intorno a Mosca c'era l'Unione Sovietica, che raccoglieva paesi baltici come la Lituania, paesi caucasici come l'Armenia, paesi dell'Asia centrale come il Kazakistan e paesi occidentali come la Moldavia e la Bielorussia. Attorno a questo nucleo centrale, vasto ma compatto, ruotavano 10 paesi satelliti, membri del Consiglio di Mutua Assistenza Economica, il Comecon. 3 di questi, Cuba, Mongolia e Vietnam del Nord, erano situati fuori dall'Europa. 7, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Est, Ungheria, Polonia, Romania e Albania, erano situati in Europa e costituivano ciò che fu chiamato blocco orientale. Tutti erano considerati da Mosca paesi del socialismo avanzato. Ma intorno a questo cerchio centrale vi era un altro cerchio ancora più esteso, costituito dai 25 stati che si stavano incamminando sulla strada socialista dello sviluppo. 13 di questi, come la Somalia, la Mongolia o il Mozambico, si autodefinivano comunisti. 12, come l'Egitto, la Libia o il Nicaragua, rifiutavano questa etichetta. Ogni nazione dei 3 cerchi concentrici ha partecipato in varia misura a uno dei massimi esperimenti sociali compiuti dall'uomo nel corso della sua storia, l'abolizione della proprietà privata. Al contrario di quanto si potesse immaginare, aver condiviso il paradigma comunista non ha reso i paesi dell'Europa orientale più inclini alla solidarietà e all'accoglienza. Anzi, la cruda esperienza subita durante lo stalinismo e negli anni successivi li ha resi gelosi della loro libertà e del loro relativo benessere. Ciò che interessava a Stalin e agli stalinisti era sopprimere qualunque tentativo di pluralismo, spegnere sul nascere ogni idea alternativa e ogni critica, creare una piramide gerarchica in cui l'intera società fosse pressata in ranghi inflessibili, lubrificare i meccanismi che consentivano la mobilitazione permanente delle masse contro i traditori e i cospiratori in agguato perpetuo. Tutta questa cupa esperienza induce oggi i paesi dell'Est, ex sovietici, a difendere gelosamente la loro riconquistata libertà da ogni minima minaccia. Però la sovietizzazione non consisteva soltanto nell'imposizione di regole burocratiche, in divieti brutali e parate militari. Ben presto gli operai conquistarono i benefici prima riservati unicamente agli aristocratici, ai proprietari terrieri e agli imprenditori privati. Gli usi più aberranti della tradizione vennero aboliti. Le donne ottennero la parità sui luoghi di lavoro. I beni essenziali erano a buon mercato. La produzione e la diffusione dei generi di consumo cresceva a ritmi elevati. La trasformazione dell'economia agricola artigianale in economia urbano-industriale procedeva a tappe forzate. La società comunista assicurava istruzioni di base, formazione professionale, disponibilità di alloggi, sanità gratuita. Conservare a tutti i costi i vantaggi del passato, evitando drasticamente il rinnovarsi dei suoi effetti, è l'aspirazione che la storia impone ai paesi dell'Est. Così si spiega, senza giustificare, la loro inclinazione all'accentramento del potere e al rifiuto degli emigrati. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Domenico De Masi, La lezione dell'Est, dal numero di dicembre del magazine Style. Deborah, ti piacciono le favole? Ma certo! E allora è arrivato il momento di dimostrarlo scrivendone una per Natale. Ma chi la scrive? È il nostro amico Andrea Vitali insieme ai nostri ascoltatori, vero Andrea? Sì, dal 1 al 24 dicembre io darò un incipit nuovo, così gli ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24 e il migliore verrà letto in trasmissione e riceverà il nostro libro intitolato Secondo Canto di Natale. Siete pronti? Letture di Radio 24. Ad Utrecht sta per prendere il via un esperimento che dovrebbe garantire per un ristretto numero di persone, già beneficiarie di un sussidio sociale, di ricevere per 2 anni un reddito di circa 1.000 euro al mese, senza alcun obbligo di lavoro e senza nessuna condizione. E questo anche nel caso i prescelti dovessero nel frattempo trovare il lavoro della propria vita o comunque un impiego ben remunerato. Che faranno in questi 2 anni? Si domanda l'ideatore del progetto. Passeranno tutto il tempo a guardare la TV o sfrutteranno questa opportunità per cercare di dare una svolta alla propria vita? L'esperimento all'inizio coinvolgerà poche persone, ma sufficienti per avere a disposizione dati scientifici sulla validità del nostro progetto. Se poi i test saranno positivi, il reddito di base sarà esteso all'intera platea dei 9.000 assistiti, che attualmente ricevono aiuti dal governo. In effetti, una piccola rivoluzione, per una cittadina nota fino a oggi soprattutto per la sua vivace città universitaria, per essere la terza bike-friendly city del mondo e per la splendida torre campanaria dalla cui sommità, nelle giornate più soleggiate, si intravede persino Amsterdam. Piccoli ma coraggiosi, scherza l'artefice del progetto, evidenziando come negli ultimi tempi molte città olandesi siano finiti sotto accusa gli uffici di collocamento, portatori di troppa burocrazia, molta diffidenza, e spesso criticati per il fatto di esigere obblighi e risposte sempre uguali da parte di tipologie di persone che richiederebbero invece risposte diversificate. Da qui l'idea di provare a immaginare un nuovo welfare e di verificare direttamente sul campo, tramite uno studio scientifico che sarà realizzato dall'Università di Utrecht, se gli obblighi strettamente connessi all'erogazione di forme di assistenza sociale, accettare lavori modesti, spesso non adatti o distanti anche 200 chilometri, pena decurtazione degli aiuti, siano così determinanti per incentivare le persone a trovare lavoro. O se invece responsabilizzare i cittadini, garantendo loro uno stile di vita e di lavoro più flessibile e meno rigido, non possa essere una strada altrettanto valida o addirittura migliore. Il tutto in un paese, non va dimenticato, che ha la percentuale di lavoro part-time, oltre il 45%, più elevata dell'Unione Europea e una disoccupazione al 7%, ben al di sotto della media UE. Sia chiaro, io non sono né contro né a favore, chiarisce Everard, ma è un dato di fatto che il nostro sistema di welfare non funzioni più come una volta. Così abbiamo deciso di sperimentare cosa può accadere se a persone che già ricevono assistenza, seppur vincolata a una serie di comportamenti, forniamo lo stesso tipo di aiuto economico slegato da qualsiasi forma di obbligo. Che cosa faranno? Passeranno il loro tempo seduti sulla poltrona a guardare la TV? Oppure, senza tutte le limitazioni imposte, avranno tempo, modi e capacità per reinventarsi una vita? Il dibattito naturalmente è aperto. È oggetto di scontro e vivaci discussioni, soprattutto sui social media. In città gli studenti ne discutono negli affollati caffè lungo i canali, dividendosi in egual misura tra sostenitori del free money, che già fantasticano sulle potenziali trasformazioni sociali delle loro vite future, e rigidi guardiani dell'ortodossia, che al contrario considerano il progetto del reddito di base una inutile carità statale. La data di partenza del progetto pilota al momento ancora non è stabilita, ma salvo imprevisti dell'ultima ora, l'operazione dovrebbe partire entro la fine dell'anno. Comunque finirà, Utrecht sarà la prima città europea a sperimentare una forma di reddito di base incondizionato. Al momento però, l'unico tentativo su larga scala in un paese industrializzato resta quello realizzato nella cittadina canadese di Dauphin, provincia di Manitoba, dove fu garantito un reddito di base a tutta la popolazione per oltre 4 anni, tra il 74 e il 79, prima che il programma venisse liquidato per un cambio di amministrazione. Quasi 40 anni dopo, Evelyn Forget, direttore del Centro Ricerche dell'Università di Manitoba, spiega: gli effetti di quell'operazione furono positivi. Complessivamente lo stato di salute delle persone è migliorato, sono diminuiti i disturbi mentali, molte mamme hanno potuto passare più tempo con i loro figli piccoli e molti adolescenti hanno frequentato le scuole più a lungo, ottenendo di conseguenza lavori più qualificati e meglio retribuiti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuliano Malatesta, Pagati anche senza lavorare, dal venerdì di Repubblica del 20 novembre. Si dice che il crimine non paghi. Forse sarà vero negli altri paesi, ma non in Italia, dove può succedere che una banda di zingari condannati per associazione a delinquere non solo non faccia nemmeno un giorno di carcere, ma si veda anche restituire 1 milione di euro precedentemente sequestrati in quanto frutto della loro attività criminale. Tutto questo perché, a forza di ritardi e rinvii, i reati per i quali gli zingari erano accusati sono caduti in prescrizione. La storia di Asti è il riassunto di tutto questo. Alla banda di Sinti hanno restituito conti correnti bancari e postali, polizze assicurative, terreni, gioielli, camper di lusso e auto sportive, denaro e beni sequestrati nel marzo 2006 e ora tornati ai legittimi proprietari, causa prescrizione. Nei giorni scorsi il giudice Federico Belli ha firmato il decreto. Il processo per ricettazione non è mai giunto a sentenza. Nel 2006 la banda era da tempo sotto osservazione da parte dei carabinieri, che avevano pedinato per mesi con microspie e GPS le loro scorribande dall'Astigiano alle case violate, forzando porte e finestre o raggirando gli anziani proprietari con 1000 scuse. Tra le zone più colpite, l'Alessandrino, la città di Genova e i paesini dell'Appennino tosco-emiliano. Nel bottino finivano contanti e oggetti preziosi, ma anche forme di parmigiano trovate in frigo, razziatori di professione. Il GIP di Asti, Aldo Tirone, applicando una legge speciale del 1992, aveva approvato le richieste del PM Luciano Tarditi di sottoporre a sequestro preventivo i beni dei presunti ricettatori e dei loro familiari. Si riteneva che si trattasse di provento di attività criminale, ma poi il fascicolo della maxi inchiesta dei carabinieri si è disperso in decine di rivoli, letteralmente spezzettato dall'astuzia di un pool di avvocati specializzati da anni nella difesa dei sinti piemontesi. All'udienza preliminare nell'autunno 2007, il giudice Cesare Proto, ora in Cassazione, accogliendo le tesi della difesa, aveva suddiviso l'inchiesta. Il processo per l'accusa di associazione per delinquere era stato affidato al Tribunale di Asti. I casi singoli di furto erano stati spediti ad una miriade di uffici giudiziari competenti per territorio e la ricettazione era stata rimandata al PM Tarditi per la citazione diretta, come previsto per i reati precedentemente gestiti dalle vecchie preture. Il guaio è che i sequestri erano basati sull'accusa di ricettazione, l'unico tra i reati contestati per i quali è prevista l'applicazione della norma su sequestri e confische. Se il processo per associazione per delinquere è giunto nel 2010 a pesanti condanne in primo grado, oltre 25 anni complessivi per i 12 imputati, con pene che arrivavano fino a 5 anni di reclusione, esito diverso hanno avuto le altre accuse. Dei furti non si sa più nulla, sparpagliati tra una decina di tribunali di città della pianura padana. Sulla ricettazione, i movimenti del fascicolo sono incerti. Assente per malattie il PM Tarditi, lunedì scorso in procura e in tribunale, nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni. Pare che il faldone abbia sonnecchiato per un po' di anni sulla scrivania del PM, che poi ha proceduto alla citazione diretta davanti al giudice onorario Massimo Martinelli, il quale è stato sommerso di eccezioni formali da parte dei difensori dei circa 30 imputati delle famiglie di Sinti, trovandosi costretto a fissare numerose udienze solo per dirimere gli aspetti procedurali. Così si è arrivati al 2015, quando Martinelli ha dovuto prosciogliere tutti per intervenuta prescrizione. Proprio quanto volevano gli avvocati, che avevano cercato in tutti i modi di far perdere tempo. Restava da compiere per i Sinti il passo finale, riavere soldi, gioielli e macchinoni. Gli avvocati Ferruccio Rattazzi, Davide Gatti e Marco Calosso hanno sollecitato un incidente di esecuzione davanti a un altro giudice, Federico Belli, il quale, lette le carte, ha convenuto sul fatto che gli ex imputati prescritti avessero ragione. Ha dissequestrato tutto, con un'ulteriore beffa. Le spese del deposito, dove sono stati custoditi caravan e auto, sono a carico del Ministero della Giustizia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Coppero, Processo infinito, ai condannati ridato 1 milione, dalla Stampa del 24 novembre.